Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, l'avventura continua, anzi Napoli e Udinese si sono scrollate persino di dosso l'Inter e hanno tutta l'aria di voler continuare. Se poi riusciranno ad andare fino in fondo, questo è un po' prematuro, ma certo non è prematuro dire che a un quarto quasi del campionato, perché siamo a 9 giornate su 38, queste due squadre sono state sino ad ora le migliori, oggettivamente le migliori da un punto di vista di rendimento, ma anche di divertimento complessivamente offerto, sia pure con caratteristiche diverse. Sono diverse nell'impostazione: Napoli-Udinese, i napoletani più tradizionali, più spregiudicata l'Udinese con quel 4-4-3, sì, buonasera, con quel 4-3-3 molto, molto disinvolto anche in trasferta. Lo si è visto ieri sul campo di Catania, che aveva sempre vinto in casa il Catania e non aveva ancora subito un gol. Ma sono comunque due modi di far calcio molto, molto efficaci, perché ripeto, al di là di fasi di divertimento autentico, 20 punti su 27 sono tanti per squadre oggettivamente partite dalla seconda fascia. E allora, visto che avremo tutto il tempo e intanto cominciate a prenotarvi all'800 24 00 24 per le conversazioni del dopo campionato, eccezionalmente di giovedì anziché di lunedì, cominciamo a sentire le voci dei protagonisti della serata, partendo da quella di Quagliarenna. Si sta bene lì su, però il mister, la società, subito la prima cosa che ci dicono, finite le partite, che abbiamo fatto 3 punti verso la salvezza, ecco, cioè i piedi ben saldi a terra, perché sappiamo che comunque il pericolo è dietro l'angolo, perciò partita dopo partita. Poi sappiamo, abbiamo anche la Coppa UEFA, perciò il dispendio di energie è tanto. Fra 3 giorni siamo di nuovo in campo, perciò non puoi neanche godere di questo primato insieme a Napoli, perciò noi vogliamo confermare quello che di buono abbiamo fatto l'anno scorso. Ecco, abbiamo fatto un grande campionato. Se potesse migliorare sarebbe ottimo, ecco. C'è una certa suggestione speciale nel sentire questo accento napoletano, palesemente napoletano, di Quagliarella parlare a nome dell'Udinese, mentre Reia, che sentiremo tra poco, friulano, goriziano, invece parla a nome del Napoli. Ma insomma, al di là di questi incroci, vorrei ricordare che l'Udinese, oltre al calcio brillante che sta facendo, e coraggioso, che sta facendo con i giocatori attualmente a disposizione, ha ancora poi, e questo direi a differenza e in più del Napoli, ha ancora qualche pedina che non è ancora stata impiegata in campionato per ragioni di infortuni. Ma insomma, due difensori come Felipe e Zapata, per esempio, credo che il loro posto, una volta guariti, lo potranno tenere. Obodo era ed è un signor centrocampista, tra l'altro ancora giovane, e anche lui non è ancora stato impiegato. Insomma, ci sono anche altre risorse per i friulani, oltre a quelle che già si vedono e si sentono sul campo. La seconda voce, vi dicevo, è quella dell'allenatore del Napoli, Reia. Oggi abbiamo fatto mezz'ora, forse la miglior mezz'ora, sì, di questo campionato, da metà campo in avanti, perché altre volte facevamo difficoltà, invece oggi hanno cercato la semplicità e l'altruismo, cosa che non si era vista in altre gare, perché io ho visto una mezz'ora direi straordinaria. Mi ero raccomandato di spingere subito, perché poi sai, man mano che passa il tempo diventa difficile queste gare, trovi una squadra chiusa, non trovi gli spazi, mentre quando inizialmente riesci a sbloccare il risultato ti diventa tutto più facile, e così è stato. Vero anche che l'opposizione della regina di ieri sera, soprattutto nella fase iniziale, è stata davvero, davvero impalpabile. Altre volte, giocare in casa contro squadre di fondo classifica che cercano per l'appunto di complicare la vita alle prime, normalmente, non altre volte, risulta ben più impegnativo di quanto non sia stato ieri. Detto questo, che il Napoli, oltre ai giocatori ai trascinatori di cui si sapeva, e cioè principalmente Amsi e Clavezzi, abbia scoperto adesso anche un centravanti che ha le caratteristiche del vero centravanti, di vecchia scuola, vecchia maniera, ma anche con non soltanto potenza e non soltanto senso della porta, ma anche risorse tecniche, perché la finezza di quella finta sul primo gol di Dennis è una di quelle cose che secondo me a un occhio un po' allenato non possono passare inosservate. Quindi risorse che proiettano il Napoli in una dimensione certamente insospettata alla vigilia, perlomeno in queste proporzioni addirittura, e danno a domenica sera un appuntamento di campionato di particolare suggestione, insomma, perché questo Milan-Napoli torna a essere una sfida tipo quelle della fine degli anni 80, inizio 90, una sfida che sembra riportare indietro l'orologio della storia del campionato di una ventina d'anni per l'appunto. Adesso andiamo in ordine sparso su altri protagonisti in positivo o in negativo della serata, ripeto sempre aspettando i vostri interventi per ampliare poi la gamma degli argomenti. Il Milan è risalito, la squadra di Ancelotti ha messo insieme 19 punti su 21 nelle ultime 7 partite, e anche questo non può accadere per caso. Ieri sera ha effettuato, un po' per amore, un po' per forza, un turnover robusto, ma nonostante questo è riuscito a vincere la partita. L'ha vinta in un modo anche abbastanza discusso, soprattutto dalla controparte. Sentiamo l'allenatore del Siena, Giampaolo. Non c'era, inesistente, non sta scritto da nessuna parte che il Siena debba perdere per forza a Milano. Sabato scorso non ci è stato concesso un calcio di rigore clamoroso sull'1-1 e noi, in quanto Siena, facciamo fatica a regalare, tra virgolette, perché i punti sono pesanti e la prestazione della squadra avrebbe meritato miglior sorte sicuramente. E mi dispiace perdere così. Personalità significa non dare quel rigore lì dal mio punto di vista, e non darlo. Però l'arbitro continua a dire che può sbagliare e noi andiamo avanti per la nostra strada. Non l'ha presa benissimo Giampaolo, non ha preso benissimo quel rigore Rinzaghi e lo credo bene, insomma. Sentiamo la controparte, sentiamo la controversione che è quella di Rinzaghi. Poi questo è l'episodio. È uno degli episodi discussi di ieri sera, non sono certamente gli unici, e poiché tutti quelli che ho notato perlomeno mi sembrano a favore delle tre squadre a strisce, non vorrei che tanto varrebbe mandare un avviso ai naviganti, in maniera che insomma, visto che il campionato è così bello, che in testa ci sono due squadre che nessuno si aspettava, che non ci fosse, come dire, uno spirito di restaurazione, no? da parte della categoria. Intanto sentiamo Inzaghi. Io penso che la cosa emblematica sia che Portanova non reclama, per cui questo dice tutto. Se non mi avesse toccato, penso che sarebbe corso dietro all'arbitro. Invece Portanova è l'unico del Siena che non protesta mai. Qui, insomma, mi ha toccato. Poi, sinceramente, forse era una palla che era difficile da colpire, perché il tiro di Kakà, se guardate Portanova, non va neanche dall'aria. Poi dopo, quando vede gli altri protestare, protesta anche lui. Ma insomma, se non mi avesse toccato, avrebbe fatto un casino incredibile. Gli ho detto che se non mi avesse appoggiato le mani e dato quella spintarella, magari non avrei fatto gol, per cui a quel punto lì secondo me il difensore deve rischiare di non toccarmi, perché sarebbe stato molto difficile colpirlo, onestamente. Però se ti tocca a quella velocità è rigore, insomma. È vero che Portanova in campo pare non abbia detto nulla, poi se ha recuperato con gli interessi in spogliatoio dicendo che meriterebbe due giornate in Zaghi come Girardino, e ovviamente ha detto una sciocchezza, perché non integra quel tipo di eventuale macchia, non integra certamente la prova televisiva. Visto che siamo sui regolamenti, c'è una curiosità abbastanza notevole, direi, su ieri sera, e cioè: la partita Roma-Sampdoria non è stata sospesa, come probabilmente saprete, ma è stata rinviata, è stata interrotta ad un certo punto per un'acquazzone che durava da molto tempo. Però l'arbitro ci ha provato, pare sia stata soprattutto la Sampdoria a insistere per giocare, anche se non è ben chiaro, e poi non ha molta importanza. In ogni caso Tagliavento ci ha provato, si è arreso dopo 6 minuti, al sesto minuto la partita è stata interrotta. Questo significa due cose. La prima è che di Roma-Sampdoria, quando si deciderà la data di recupero, non è facile trovarla, si giocheranno 84 minuti più recupero, perché la partita è considerata iniziata e quindi non ricomincerà ma continuerà dal sesto minuto. La seconda, che è figlia di questa conseguenza, la seconda conseguenza che è figlia della prima, è che Mekšić e Vucinic, squalificati ieri sera, giocheranno sabato sul campo della Juventus, perché hanno cominciato a scontare i primi 6 minuti della squalifica di pertinenza per la giornata di ieri. Sicché Ristaranno al palo negli 84 minuti del recupero contro la Sampdoria, ma giocheranno sabato contro sul campo della Juventus, e questo è l'articolo 22 del codice di giustizia sportiva alla voce esecuzione delle sanzioni. Sospendiamo per un attimo le voci dei protagonisti e arriviamo alle vostre. Per esempio Luciano, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo fare due considerazioni su Mourinho. Secondo me Mourinho a volte non riesce a trovare delle varianti tattiche da proporre in base all'avversario. Mi spiego. Per esempio ieri Prandelli sulla fascia destra con Kuzmanovic e con Motto è riuscito a mettere in difficoltà Maicon effettuando dei cross dalla tre quarti per Pazzini, mentre a volte Mourinho non riesce a trovare quelle varianti, non lo so perché magari non ha a disposizione tutti i giocatori o magari perché non studia tanto come fanno gli allenatori italiani gli avversari. E poi la seconda cosa, velocissima, su Adriano sono d'accordo che ha infranto un regolamento, ma su Cruz che sbaglia due appoggi o magari fa due dribbling in più e metterlo fuori rosa mi sembra un po' eccessivo, perché anche ieri a un certo punto Ibrahimovic non ha dato una palla a Quaresma che gridava allo scandalo. Ecco, grazie, volevo sapere una sua opinione. Grazie a lei. Ma sul primo punto insomma, è vero che hanno concesso qualcosa, però lei stesso ha detto che gli hanno concesso dei cross dalla tre quarti. Beh, i cross dalla tre quarti io li concederei tutta la vita ad un avversario, e se mi vanno sul fondo a crossare all'indietro che cerco di trovare delle contromisure, finché crossano dalla tre quarti non mi sembra gravissimo. Detto questo, è ovvio che mi pare sia facile da rilevare dalle caratteristiche che Maicon il suo meglio lo dà da metà campo in avanti che non da metà campo in indietro, cioè è più un terzino d'assalto che un terzino difensivo. Comunque che sia un signor giocatore con la S maiuscola è indiscutibile. Sul resto è vero questo, possono esserci altre verità, altre spiegazioni. Indubbiamente mentre Adriano i suoi problemi insomma, mi pare siano discretamente cronici e risalgano anche dietro al tempo, di comportamenti, insomma, di punizioni a Cruz non si ha traccia nella carriera dell'argentino, però evidentemente con Mourinho c'è sempre una prima volta per tutti. Poi magari il prossimo intervento sull'Inter farei un'osservazione statistica che non ho ancora visto e sentito, no? Se ogni tanto c'è qualcuno di voi che interviene che dice c'è una cosa che nessuno ha ancora detto e ancora scritto. Io non ho questa pretesa, ma ho l'impressione che su Ibrahimovic ce ne sia una della stagione in corso che non mi sembra abbastanza inedita. Se l'Udinese fosse il Verona 84-85, domanda e si domanda Giulio Passoni in un messaggio. Prestino, ancora prestino, ma non prestissimo. Io penso che, cioè penso, so perché l'ho letto, perché me l'ha raccontato più di una volta da Bagnoli, che il Verona quell'anno si convinse durante la sosta invernale, che poi era molto più breve di adesso, ma insomma, durante quelle brevi vacanze di Natale, si convinse che la classifica che avevano poteva anche durare fino alla fine, perché ormai erano arrivati quasi a metà campionato. Se a Natale il Napoli e l'Udinese fossero in questa posizione, o più o meno in questa posizione, allora si potrebbe probabilmente cominciare con più, insomma, con più fondamento a fare di questi discorsi. Il sindaco di Udine, leggo da un'agenzia, dice: le grandi balbettano, no, le cosiddette grandi balbettano. L'Udinese è il simbolo del sistema Friuli che funziona. Marino ha costruito una macchina praticamente perfetta. Noto che c'è grande solidarietà di gruppo. Insomma, tutto funziona bene. Si può essere l'anno buono. Vado subito a vedere con chi gioca domenica l'Udinese in casa col Genoa. Penso che siano dichiarazioni queste che i genuani a quest'ora staranno cominciando a trarre le loro conseguenze. Jacopo, provincia di Gorizia, buongiorno. Buongiorno, io ho intravisto un certo parallelismo tra la Juventus attuale e il Liverpool di Benitez, cioè all'inizio del campionato la squadra stentava, mentre in Champions League giocava partite molto più intense. Vorrei dare un consiglio a Ranieri, che sarebbe quello di continuare sulla strada della Champions League tralasciando tra virgolette un po' il campionato, perché credo che maggior gloria derivi dalla Coppa, ecco. Certo, se è in ascolto avrà fatto tesoro. Poi insomma, loro stessi quest'estate, da Ranieri in giù, mi pare che abbiano abbiano tutti quanti no, dichiarato, perlomeno nelle intenzioni, che la Champions, la Coppa veniva prima del campionato, però che non avrebbe, insomma, che gli obiettivi erano tutti e due. Secondo me hanno già parlato troppo in estate, no? Morale detto tra noi, sicché se adesso, visto oltretutto che sono la metà più o meno dei disponibili, se adesso continuano a riuscire a far punti, sia pure magari o senza magari, senza giocare bene, senza convincere, credo che sia il massimo che oggi come oggi possono fare. Da Teramo, Pierino, buongiorno. Salve, buongiorno. Niente, le volevo domandare che cosa ne pensava lei del Milan, che nelle ultime 7 partite in pratica ha vinto 6 volte, ha pareggiato una volta sola. E se secondo lei può incidere così tanto il fatto che il Milan quest'anno non giochi in Champions League? Incide, sì, sì. L'incidenza è certamente... Negli ultimi dei campionati, in pratica, il Milan si trovava a queste giornate, già si trovava a 7-8 punti, 9 punti, mi pare. Sì, sì. No, ma infatti l'incidenza è altissima. Quest'anno è assurdo, così come nel Milan questo fatto della Champions negli ultimi anni è inciso così tanto. Cioè, penso che in Europa sia un caso quasi unico, una squadra che gioca in Champions, che in campionato proprio andata. Certo, Pierino, ma dato che quest'anno, per l'appunto, come lei stesso diceva, la Champions non ce l'ha, è evidente che restandogli il campionato, a quello si deve dedicare. E mi pare che poco alla volta, giornata per giornata, stia, per l'appunto, riacquisendo la mentalità da campionato che negli anni scorsi non aveva. Mentalità da campionato vuol dire anche non brillare, vuol dire anche accontentarsi di giocare da maluccio a male, però lucrare, far punti. Io credo che oggettivamente tra Atalanta e Siena, boh, un paio di punticini credo che fossero il giusto, no? la giusta mercede per quello che si era visto. 2-3, diciamo, poteva perdere a Bergamo e vincere ieri, oppure poteva fare due pari che forse erano più giusti, e invece ne ha portati a casa 6. È un atteggiamento magari casuale, ma non credo, da formichina, che non appartiene granché al DNA del Milan, perlomeno a quello recente. Poi certo, se arrivano gli aiutini, no, come nel caso di ieri sera, quelli non sono mai sgraditi, e comunque, ripeto, quelli riguardano anche le altre squadre a strisce, se parliamo di ieri. Da Latina, Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo riallacciarmi anche a quello che diceva l'ascoltatore di prima, parlare del Milan. Io sono un tifoso del Milan, però volevo, l'argomento era questo, la casualità nel gioco del calcio, perché in fin dei conti il calcio è un gioco, no? È uno sport. Cioè, ecco, proprio il Milan, che all'inizio di campionato ostentava, tutto gli andava male, adesso invece tutto gli va bene, perché come diceva giustamente lei, poteva stare almeno 3 punti sotto, invece sta 3 punti sopra. E la stessa cosa anche per l'Inter, volevo anche riallacciarmi all'Inter. L'Inter fino all'anno scorso gli andava tutto bene, perché più o meno gioca sempre allo stesso modo, faceva il gol, gli altri non segnavano, adesso invece stenta a fare questo. Quindi certe volte parliamo, ci sforziamo di parlare di schemi o meno, ma molte volte c'è il caso, lo stesso il Napoli, sì. Domenica. Senza esagerare però, Giuseppe, perché insomma, io ho letto questa, per esempio, questa teoria di Rotito, per cui cioè secondo il quale nel calcio il 50% è imponderabile, mi sembra una percentuale un po' altina. Se diciamo che l'imponderabile, per l'appunto, ha una sua incidenza in un gioco come in uno sport, in un gioco, lo chiami come vuole, come quello del pallone, non c'è nessun dubbio. Entro poi certi limiti, perché quello che può valere per una giornata, per due, per qualche circostanza, poi non può valere su una corsa a tappe di 38 partite, no? Quindi un po' sì e un po' meno. Visto che stiamo parlando di Milan, sentiamo la voce, il commento di Carlo Ancelotti a questa, non solo alla partita di ieri, ma anche a questa breve, rapida rimonta in classifica del Milan. Qualche settimana fa abbiamo detto che il nostro obiettivo è quello di arrivare in testa alla classifica. Forse non ho fatto i conti con l'oste, perché non mi aspettavo certamente, sì, forse il Napoli una vittoria era diciamo, preventivabile con la Regina, non mi aspettavo la vittoria dell'Udinese, quindi può essere pure che battendo il Napoli, che non sarà semplice domenica sera, non riusciremo ad arrivare in testa alla classifica. Quello che è importante è che riusciamo a mantenere questo ruolino, che è un ruolino molto positivo, e guardare avanti. So solo che domattina alle 11 c'è allenamento, chi c'è c'è. Facciamo che fino alle 11 sono liberi, possono fare quello che vogliono. Non credo che, sia necessario controllarli i giocatori. Io i giocatori non li ho mai controllati, anche perché quando giocavo mi avrebbe dato fastidio se qualcuno mi controllava. Ho avuto allenatori che hanno sempre gestito le cose così e credo di aver imparato bene da loro. Andare in discoteca non credo che sia per un ragazzo giovane una cosa indisciplinata, oltretutto magari dopo una partita passare un'ora magari con gli amici così credo che non fa male. Il vecchio, no vecchio mica tanto, ma insomma comunque il non più giovane saggio Carletto Ancelotti, che evidentemente però sa di o spera di avere giocatori responsabili, cosa che altrove per esempio sull'altra sponda del Naviglio non mi pare che sia, perlomeno in qualche caso i comportamenti di Adriano sono ad alta recidività e comunque sono anche rappresentano una tradizione nella storia recente dell'Inter. Non mi sembra sia il caso di ricordare di rimangare la vita da professionista che faceva Bobo Vieri o altri ancora. Mirko, provincia di Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Renzi. Dica. Niente, una cosa soltanto. Secondo lei, in questo momento, Mourinho ha in mano la squadra o c'è qualcuno che gli rema contro? Perché anche ieri sera mi sembrava che ci fossero due o tre giocatori che spazientavano, cioè cercavano in tutte le maniere di aiutarsi tra di loro. E due o tre andavano per conto proprio. È una mia impressione o è una cosa che anche lei concepisce o recepisce? No, in questo no. No, secondo me è una sua impressione. Se vede qualcuno andare per conto suo vuol dire che non ha ancora capito, come altri d'altra parte, che cosa abbia in testa esattamente Mourinho, oppure vuol dire che semplicemente, come sempre accade, come spesso accade, cambiando guida tecnica, si fa un po' di fatica a orientarsi subito su nuove proposte di gioco. La parola schemi mi piace pochino, su nuove idee di gioco. Io sinceramente, se c'è una cosa che mi lascia perplesso di Mourinho, ma molto perplesso, è questa. Lo dicevo prima, cioè lo anticipavo prima, riguarda Ibrahimovic. Allora, Ibrahimovic è l'unico giocatore imprescindibile per l'Inter. Proprio perché è imprescindibile per l'Inter, io credo che vada un pochino tutelato e preservato da un punto di vista fisico, perché ha avuto anche lui i suoi guai in passato, lo scorso anno per esempio, e perché non è pensabile che un giocatore possa restare in forma dalla prima all'ultima giornata della stagione giocando sempre. Bene, di tutta la rosa dell'Inter Ibrahimovic è l'unico che fino a oggi non ha saltato un minuto né in campionato né in coppa. Io trovo che sia una gestione che assolutamente non condivido, visto che l'Inter, non so, un paio di partite in campionato in casa, per esempio contro il Lecce, che era tra l'altro di mercoledì, prima del Milan, la Nortosis, insomma, sono partite che magari anche il povero Cruz può provare a risolvere, no? O il povero Crespo, penso io. E intanto quell'altro che serve poi di più negli appuntamenti decisivi e quelli che contano e in prospettiva primaverile, quell'altro riposa anche un pochino ogni tanto. Ma se così non va, vorrà dire che ci sarà il suo bravo perché. Bologna si è risvegliata più triste non per l'ennesima sconfitta, ma perché alcuni suoi tifosi si sono adeguati alla media nazionale. Un messaggio firmato Omar, che è un ascoltatore fedele da Bologna per l'appunto, e che si riferisce al triste, gravissimo fatto accaduto ieri sera. L'Ansa ha appena battuto una prima ricostruzione di questa, chiamiamola, vicenda. Sarebbero tre ultra, secondo la prima ricostruzione della questura, gli autori dell'aggressione al tifoso della Juventus modenese di 44 anni, colpito ieri sera alla testa nei pressi del Dallara. L'uomo era andato a vedere l'incontro insieme al figlio sedicenne e ad un amico del ragazzo della stessa età. I tre sono usciti dall'area distinti qualche minuto prima della fine della partita, si sono incamminati verso via della Certosa per recuperare l'auto e tornare a Modena. A scatenare la reazione degli aggressori è stata la sciarpa bianconera indossata dal figlio del 44enne. Togliti quella sciarpa, gli ha gridato un ultra che impugnava una bandiera del Bologna. Risposta negativa del ragazzo, minaccia, ora ci penso io. Sono comparsi altri due giovani intervenuti a breve distanza di tempo. Prima uno ha strappato la sciarpa al collo del sedicenne, è stato inseguito e bloccato dal padre, che a quel punto è stato aggredito alle spalle e colpito alla fronte con una pietra da un terzo ultrà. Sono i tre che per l'appunto la questura sta cercando. Ci sono due altri sedicenni che per ora sono gli unici testimoni, stanno in queste ore esaminando i filmati delle telecamere interne ad Allara per verificare per provare a vedere se riescono a riconoscere in curva gli ultrà, gli ultrà colpevoli di questa aggressione. C'è in linea Alessandro, ha chiamato da Livorno, buongiorno. Buongiorno Renanzini, la cortesia, guardi, devo farle i complimenti non solo a lei ma a Radio 24, che veramente state facendo dei programmi. Presenterò, grazie. Certo, a parte questo, una cosa veloce. Secondo lei può esistere un miracolo tipo Verona di Bagnoli nel calcio moderno? Cioè può accadere una cosa del genere? E soprattutto, secondo lei, potrebbero esistere ancora squadre che giocano con un tempo a uomo, col libero, tutto, o questo ormai nel calcio moderno non è più possibile? Volevo sapere questo. Sono due domande mica da poco. Allora, alla prima le dirò che ho sempre pensato di no, cioè ho sempre pensato, ma tutti credo pensassimo più o meno alla stessa maniera, che queste cose non erano più possibili. Ora, fino in fondo continuo a pensare che sia molto ma molto dura. Però già a questo punto della stagione non avrei mai detto, né io né tanti altri credo, che avremmo trovato in testa un Napoli o un Udinese. Quindi si vede che un equilibrio si sta ricreando, forse poco alla volta, visto che la cosa riguarda anche altre nazioni, perché l'Hoffenheim ieri sera per esempio ha rivinto fuori casa per 3-0, mi pare, non so se è il caso fuori casa, ma insomma è rimasto in testa alla classifica tedesca. È caduto l'Hull City in Inghilterra, invece ha perso in casa 3-0 la Chelsea, ma insomma non è un fenomeno isolato, no, del calcio italiano, quello di Napoli Udinese. Già 9 giornate non sono poche. Il fatto di rigiocare con un cono senza libero non ha poi quella grande importanza. Il fatto di tornare a praticare con più rigore la fase difensiva è, non so se una richiesta o una necessità o un'utopia o va a sapere. Certo, insomma, avendo i capelli di un certo colore per aver visto tanto calcio, la meraviglia più grossa che provo oggi è vedere quanti gol si subiscono in maniera dilettantesca anche ad altissimo livello, e pensare di conseguenza, la cosa questa che penso spesso, ma penso vedendo certi gol, mi vengono in mente i nomi di grandi attaccanti del passato che furono grandi ma che oggi sarebbero dei fenomeni autentici, perché allora giocavano prigionieri, no? Giocavano in un calcio molto più sparaglino, molto più difensivista e prigionieri di un cumulo di difensori avversari. Oggi con questi spazi, e ripeto con questa poca cura del sistema difensivo, farebbero il doppio dei gol che hanno segnato allora, certamente. Tiziano, provincia di Vercelli, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Complimenti di rito. Una domanda, non è una domanda, diciamo una considerazione, sempre sull'Inter. Io ho visto alcune partite dell'Inter di Mancini dell'anno scorso e devo dire non è che mi entusiasmassero molto. Ne ho viste alcune dell'Inter di Mourinho quest'anno e secondo me sono sulla stessa falsa riga. Volevo così sapere da lei una sua opinione, se questa è solo una questione di tempo per Mourinho oppure insomma questo è il suo tipo di gioco e quindi insomma non dovremmo aspettarci molto di più nel proseguo della stagione. Tiziano, le faccio rispondere direttamente da Moratti, nel senso che è appena uscita una risposta, l'Ansa l'ha battuta mezzo minuto fa. Niente paragoni tra l'Inter di Mancini e quella di Mourinho, ma se proprio si vuol fare un parallelo tra le due squadre, tra la squadra che ha dominato il campionato per 2 anni e quella scivolata oggi al quarto posto, che sia di incentivo a Mourinho perché faccia meglio. Ecco, questa è la convinzione del presidente Moratti all'indomani del pareggio fiorentino. La frase testuale è: il confronto con gli anni passati al massimo deve incentivare Mourinho a far meglio, ma è vero che ogni campionato ha la sua storia, questo è certamente difficile e noi abbiamo cambiato delle cose, per questo non posso pretendere di vedere la stessa esperienza di chi la squadra ce l'aveva in mano da tempo. Così conoscendo un pochino i soggetti. Tullio da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ascolti, volevo usare la vostra radio per mandare un messaggio a Zenga. Si può fare? Perché non so come come si possa. Io tengo il Catania, tra le altre cose. Sì. Ecco, no, io tutte le domeniche mi guardo il Catania in casa e fuori, ma mi sono accorto, come tanti altri tifosi, presumo, che quando fa giocare Plasmati all'attacco di fianco a Paolucci, è tutto un Catania d'attacco. Ecco, tutto qua. Mi auguro che Zenga fosse in ascolto, perché potrebbe aver risolto un problema mica da poco per il suo Catania. Torniamo alle voci. Dopo Ancelotti, vediamo un po', nella scaletta preparata da Flavio Suardi, come sempre, c'è la voce di Chiellini. Purtroppo anche oggi è una partita che potevamo chiudere prima, siamo arrivati alla fine a faticare un pochino e a rischiare. Abbiamo commesso una disattenzione sul gol loro e purtroppo abbiamo vissuto un quarto d'ora che comunque qualche rischio l'abbiamo corso, invece dovevamo chiuderla prima. Insomma, sul campo chi ha visto la partita ha visto una squadra padrona del campo che doveva vincere con almeno due gol di scarto, però insomma va bene così, siamo abituati a soffrire, ma credo che dopo questo periodo un po' negativo abbiamo ritrovato anche quel qualcosa in più, quella voglia di lottare che ci ha dato tante gioie lo scorso anno. I due gol di scarto potevano anche essere di più dopo un'ora di gioco. Non dimenticherei però un paio o tre di particolari di cui parlavo all'inizio. Era nel primo tempo, mi pare, una spinta di Melberg a Marazzina che aveva tutta l'aria di meritare un calcio di rigore. Non mi ricordo a che punto della partita un fallaccio di Iaquinta su Mingazzini avrebbe meritato una severità maggiore. Era certamente nel primo tempo una mezza gomitata di Nedved su cui Trefoloni ha chiuso più di mezzo occhio. Come gli capita d'altra parte abbastanza spesso in campo nazionale e internazionale. Ricordo che Trefoloni è l'ultimo retaggio di una generazione di arbitri che risale appunto a un'epoca che speriamo e contiamo proprio di aver messo alle spalle. Giorgio ha chiamato da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Guarda, io l'altro giorno mi sono divertito tantissimo a vedere il primo tempo, soprattutto dell'Hoffenheim con l'Hamburgo, no? Sì. E l'Hoffenheim ha un sacco di meriti e ha una fortuna, a mio parere, che nel campionato tedesco probabilmente circolano meno quaterne arbitrali abili a pilotare le partite. Ieri sera ne abbiamo avuto un esempio clamoroso qui a Firenze, perché un campionato così bello, io ho 30 anni che seguo il calcio e questo è veramente bello, questo campionato, entusiasmante. Guardi, le assicuro, ma non tanto Rosetti, perché io ero proprio lì in linea, Rosetti poteva anche non vederlo, il calcio di rigore su Pazzini, perché aveva magari la barriera davanti, ma il segnalino era lì sotto di me, e non è possibile che non abbia visto, è impossibile, perché era clamoroso, netto, e questi sono pilotatori di partite, Rosetti è un noto pilotatore di partite, a mio parere, oltre a essere un arbitro tecnicamente bravo, volevo sentire la sua opinione. La mia opinione è che se lei vede calcio da 30 anni dovrebbe aver visto molto di peggio e dovrebbe aver capito nel frattempo quali erano i pilotatori e come si fa a pilotare davvero una partita. Io credo che questo fosse l'altro episodio, che non è l'unico della partita di Firenze, per la verità, perché credo che anche un fallo di Vieira su Montolivo, che è passato impunito, visto che in questo periodo stiamo mettendo un po' nel mirino le scorrettezze gratuite e cattive, meritasse più attenzione. Io credo davvero anch'io che Rosetti dalla sua posizione non potesse vedere. D'altra parte la stessa inquadratura televisiva tradizionale, cioè quella con le telecamere posizionate a metà campo, non davano conto esattamente della forza di quella trattenuta. Quello è una delle situazioni che, se passerà la linea Platini, cioè con i giudici di area, non sarà più possibile sbagliare, sempre che non ci siano pilotatori, a cui io personalmente al momento continuo a non credere. Credo, come credevo anche l'altro anno, e come ho sempre creduto, che ci siano squadre che godono di un fascino maggiore, no? Quella che si chiamava in quella famosa... con quella famosa sudditanza psicologica o no, credo che questa continui a perdurare e che un po' alla volta stia fiorando, perché ripeto, ho visto ieri sera trattamenti un po' troppo riguardosi per le tre squadre più forti, per le tre squadre più titolate e tutelate. La vittoria del Napoli sulla Lazio era stata fortunosa, scrive Alessandro da Bergamo. È verissimo. In compenso, la sconfitta del Napoli a Genova era stata molto, ma molto sfortunosa, se vogliamo metterla così. Ma molto, molto. E quindi credo che alla fine i conti più o meno tornino. Il Genoa quest'anno non credo si possa lamentare di come gli sta girando. Anche ieri sera, se parliamo di errori arbitrari, il fuorigioco del primo gol era clamoroso, perché erano in tre davanti al portiere in offside e uno di questi tre ha segnato. Ma insomma, questi sono errori che girano. Non credo possa esserci sudditanza psicologica nei confronti del povero vecchio Zena. Toccherebbe Alessandro da Vicenza, che è in attesa da un po', ma prima c'è, come sempre a questo punto della puntata, del nostro appuntamento, c'è il ripasso di storia. Nicola Filippone. Sembra ieri. 30 ottobre 1988. Sul circuito di Suzuka, Ayrton Senna vince il Gran Premio del Giappone, conquistando il primo titolo mondiale della sua carriera. La gara del brasiliano inizia male. La sua McLaren si blocca in mezzo alla pista, poi riparte, ma lo costringe a una rimonta disperata, che conclude superando il compagno di scuderia e rivale per il titolo Alain Prost. Il francese a fine mondiale avrebbe totalizzato più punti, ma a decretare il successo di Senna è il regolamento dell'epoca, che considerava nel conteggio finale solo gli 11 migliori risultati. Torniamo in onda, vi dicevo che tocca ad Alessandro da Vicenza, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, io volevo muovere delle critiche nei confronti dello Special One, di Gagliani, Ranieri, Spalletti, che vanno ad acquistare il Trivela, il Beckham, Baptista, gente così che porta abbonamenti e non spettacolo, ai danni invece di Pepe, Amsic e Paolucci, Plasmati, gente che sul serio ci fa felici quando li guardiamo. L'ascolto per radio, grazie. Cosa vuole ascoltare? Speriamo che continui così, speriamo che quelli che hanno davvero i quattrini delle risorse continuino. Mica comprano solo brocchi, ma comprino anche ogni tanto nel nome del marketing, piuttosto che nel nome del richiamo ad ogni costo, nel nome dello specchietto per le allodole. Perché? Perché almeno quelli buoni o qualcuno buono rimane a disposizione di chi invece all'occhio lungo, e quindi si può creare in questa maniera quel po' di equilibrio che finalmente quest'anno, ripeto, fino adesso e senza troppo illuderci, si è finalmente creato. Ha chiamato Matteo da Monza, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Tifoso del Palermo, una domanda: non è che abbiamo fatto dei proclami molto anticipatamente sul Palermo e sul suo allenatore Ballardini? Perché ieri sera ho visto un pessimo Palermo con dei lanci lunghissimi per le sue punte che non c'erano. Miccoli è un nanetto, Cavani ne piglia uno ogni tanto, lì non c'era né Amauri né Toni. Mi sa tanto che andando avanti così ci dobbiamo guardare le spalle. L'attendo la sua risposta per radio. No. Ieri sera hanno giocato 9 partite contemporaneamente, mi faccia grazia di come ha giocato il Palermo. Che debba guardarsi le spalle mi sembra un po' eccessivo, insomma. Capisco la passione, ma che la passione porta a esaltarsi in eccesso nel bene, a deprimersi in eccesso nel male, ma insomma che il Palermo debba guardarsi le spalle con la squadra che ha mi sembrerebbe un po' forte come concetto. A proposito di tifo, che può contagiare anche la stampa, come sempre accaduto e sempre accadrà, in questo caso parlo davvero della stampa, nel senso di quella di Torino. Questa mattina ho tratto una chicca leggendaria sulla serata no di Rosinaldo, cioè già il titolo mi ha fatto impazzire, perché che Rosina sia stato soprannominato Rosinaldo, non è che si è chiamato da solo Rosinaldo a Torino, sono i giornalisti torinesi che l'hanno soprannominato così per via che ha fatto un paio o tre di buone partite tempo fa. Ma insomma, nella ricostruzione della questa serata no di Rosinaldo, questo articolo, peraltro non firmato, termina così: l'ingresso di Abate è stato accolto da un applauso forte e unico, un segnale per Rosina, lontano gemello del fenomeno che aveva saputo conquistarsi il Torino. Torno a ripetere: un segnale per Rosina, lontano gemello del fenomeno che aveva saputo conquistarsi il Torino, per dire i danni che possiamo fare anche noi come categoria. Mario, provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno, mi accodo e complimenti a lei e alla trasmissione. Grazie. La mia domanda è, innanzitutto complimenti per la squadra della mia città che è in testa in classifica. E meno se ne parla e meglio è, così va avanti. Se no l'intervento di quel signore milanese di ieri o di ieri l'altro non mi era piaciuto. Ma guardi che il suo sindaco oggi che sta correndo dei rischi gravi, non so se ha ascoltato prima. No, non l'ho ascoltato. Cioè, il sindaco, dato che sa che i sindaci quando c'è da cavalcare... cavalcano, no? Che sia... specialmente dipende dai cavalli che hanno sotto. Ecco, innanzitutto volevo sapere cosa ne pensa di questa squadra, se veramente quest'anno può fare qualcosina in più del terzo posto di 10 anni fa, o se diciamo va bene anche come adesso, magari arrivare in Coppa UEFA. Questa è la mia prima domanda. La seconda è una mia considerazione. Io ho sentito dell'incidente di quel signore a Bologna, che con il figlio è andato a vedere la partita della Juventus a Bologna. Incidente? Vabbè, è una cosa incresciosa, chiamo incidente ma è una cosa vergognosa. Ah, ecco. No, non vorrei accodarmi a qualche altra persona che non voglio avere né a che fare né niente. Però io allo stadio ci vado, adesso per problemi di lavoro ci vado di meno, ma per 10 anni ho fatto l'abbonamento a Udine e ho portato nipoti e parenti con tifosi di Juventus, Inter e Milan anche a Udine. Però ho consigliato sempre, quando si va allo stadio, quando si esce, di togliere la sciarpa per evitare questi incresciosi e vergognosi episodi. Questa è una mia considerazione. Ma sì, Mario, ma io infatti la capisco, la condivido, non lascerei mai, però capisce che è una resa. Io mi sono sempre comportato così e le dirò... non io personalmente, perché non sono mai andato allo stadio con la sciarpa, ma insomma, se avessi dovuto gestire qualcuno dei ragazzi, delle cose nei dintorni di uno stadio, avrei sempre fatto così. Ma le dirò, 30, 40, 50 anni fa, quando ci andavo tutte le domeniche, se è per questo, perché nella vita non si sa mai, il demente in agguato c'è sempre, no? E questo vale per qualsiasi situazione, anche quelle che non riguardano il calcio, figuriamoci in questo momento. Detto questo, il cittadino non è tenuto ad avere questi eccessi di prudenza o di zelo. Queste sono riflessioni o comportamenti individuali che poi ciascuno decide di amministrarsi. Uno può anche invece indossare e sfoderare una sciarpa con i cosiddetti colori sociali semplicemente perché questa cosa gli fa piacere, può anche ostentarla possibilmente senza provocare. Credo che comunque l'idea di dover rischiare la pelle, perché quest'uomo sta adesso, pare che non sia più in pericolo di vita, comunque è tuttora in condizioni molto gravi, l'idea che si possa rischiare la vita perché il proprio figlio ha una sciarpa al collo di determinati colori è qualcosa di folle, che purtroppo appartiene alla realtà che stiamo vivendo. Stiamo avviandoci in conclusione, mi pare, un minutino abbiamo finito. Sentiamo Antonio, provincia di Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Beh, faccio gli auguri a quel tifoso bianconero che sta combattendo lì all'ospedale perché si rimetta quanto prima. E certamente questi casi qui sono da deplorare. Condivido con lei il fatto che portare una sciarpa del colore della propria squadra sia un diritto di tutti e debba essere rispettato. Purtroppo questa società non ci dà modo di incrementare quella che è la cultura della democrazia, ma anche del rispetto semplice e educativo della persona. Il mio intervento però era questo. Si è parlato molto di Mourinho, di Ranieri e altri allenatori che sono in rischio di panchina o quantomeno di comportamenti peraltro oggettivamente non coerenti. Detto questo, credo però che siano tutti professionisti di alto livello, così Ranieri come Mourinho eccetera, e nel tempo, con un minimo di tranquillità, perché purtroppo il nostro calcio non dà questa serenità, riusciranno veramente a dare al nostro calcio quello che sono in grado di fare. Glielo auguriamo, grazie, tempo scaduto abbondantemente, grazie allora a Peter Bescappè in regia, Flavio Suardi in redazione, vi lascio al giornale radio.